Caccia. Caccia all'ideologico quotidiano. A cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Cominciando per una volta dalla coda, meglio, perché nella coda c'è il veleno, vi annuncio che parleremo di tempo, di interlocutori che la sanno lunga o la sanno tutta, di attentati e di denti.